Testimonianze extracristiane sulla persona di Gesù di Nazareth e sulla Chiesa primitiva. Giuseppe Flavio. Le prime chiare testimonianze storiche sulla persona di Gesù ci sono tramandate dallo storico giudeo-romano Giuseppe Flavio, che visse tra il 37 e il 103 circa, che fu prima legato del Sinedrio, governatore della Galilea e comandante dell'esercito giudaico nella rivolta antiromana, ed in seguito consigliere al servizio dell'imperatore Vespasiano e di suo figlio Tito. Nella sua opera Antichità giudaiche, nella quale narra la storia ebraica da Abramo sino ai suoi tempi, egli fa un accenno indiretto a Gesù. L'occasione gli è fornita dal racconto dell'illegale lapidazione dell'apostolo Giacomo, detto tradizionalmente il minore, che era a capo della comunità cristiana di Gerusalemme, avvenuta nel 62, descritto come un atto sconsiderato dal sommo sacerdote nei confronti di un uomo virtuoso. Anano, questo era il nome del sommo sacerdote, convocò il Sinedrio a giudizio e vi condusse il fratello di Gesù, detto il Cristo, di nome Giacomo, ed alcuni altri, accusandoli di trasgressione della legge e condannandoli alla lapidazione. In un altro passo, sempre della medesima opera, invece, egli fa menzione della figura di Giovanni Battista. Erode Antipa, per sposare Erodiade, moglie del proprio fratello, aveva ripudiato la figlia di Arete, re di Nabatene, la quale si rifugiò dal proprio padre. Ne sorse una guerra nel 36, in cui Erode fu sconfitto, e questo è il commento di Giuseppe. Ad alcuni dei giudei parve che l'esercito di Erode fosse stato annientato da Dio, il quale giustamente aveva vendicato l'uccisione di Giovanni, soprannominato il Battista. Erode infatti mise a morte quel buon uomo che spingeva i giudei che praticavano la virtù e osservavano la giustizia fra di loro e la pietà verso Dio a venire insieme al battesimo. Così, infatti, sembrava a lui accettabile il battesimo, non già per il perdono dei peccati commessi, ma per la purificazione del corpo, in quanto certamente l'anima è già purificata in anticipo per mezzo della giustizia. Ma quando si aggiunsero altre persone, infatti provavano il massimo piacere nell'ascoltare i suoi sermoni, temendo Erode, la sua grandissima capacità di persuadere la gente che non portasse a qualche sedizione, parevano infatti pronti a fare qualsiasi cosa dietro sua esortazione, ritenne molto meglio, prima che ne sorgesse qualche novità, sbarazzarsene, prendendo l'iniziativa per primo, piuttosto che pentirsi dopo, messo alle strette in seguito ad un subbuglio. Ed egli, per questo sospetto di Erode, fu mandato in carcere alla già citata fortezza di Macheronte. Ecco là, fu ucciso. È interessante il motivo politico che Giuseppe aggiunge a quello addotto dai Vangeli, cioè le continue rampogne del Battista ad Erode per la sua situazione adultera. Ma la testimonianza di gran lunga più interessante è contenuta nel capitolo 18 della medesima opera ed è nota fra gli storici come Testimonium Flavianum, cioè testimonianza di Flavio. Essa, a causa della difficoltà di alcune sue affermazioni, fu oggetto di un lungo dibattito fra gli studiosi. Così, infatti, si presenta nella forma a noi tramandata nelle antichità giudaiche. Ci fu verso questo tempo Gesù, uomo saggio, sempre che si debba definirlo uomo. Era infatti autore di opere inaspettate, maestro di uomini che accolgono con piacere la verità, ed attirò a sé molti giudei ed anche molti della grecità. Questi era il Cristo. E quando Pilato, per denunzia degli uomini notabili fra noi, lo punì di croce, coloro che da principio lo avevano amato non cessarono di farlo. Egli infatti apparve loro al terzo giorno nuovamente vivo, avendo già annunziato ai divini profeti queste e migliaia d'altre meraviglie riguardo a lui. Fino ad oggi ed attualmente non è venuto meno il gruppo di quelli che da costui sono chiamati cristiani. Per molti, alcune delle affermazioni di questo testo sembrano essere opera di uno scrittore che crede alla divinità di Gesù, alla sua risurrezione, alla sua qualità di Messia, cioè di Cristo predetto dai profeti. A un giudeo non convertito al cristianesimo, qual era Giuseppe, tali cose sono parse difficilmente ascrivibili. Per questo motivo, a partire dal secolo XVI, con Gifanio e Osiandro, l'autenticità del passo è stata messa in dubbio da un numero sempre crescente di commentatori, pur non mancando coloro che la difendevano anche tra autori di larga fama. Una gran parte di studiosi, invece, non giudicava il testimonium come totalmente apocrifo, opera di getto di un cristiano che l'ha inserito in quel punto della storia di Giuseppe, bensì lo riteneva un passo interpolato, scoprendovi il lavorio di una mano cristiana che avrebbe ritoccato volontariamente o involontariamente un tratto autentico delle antichità. Per ritocco involontario si allude a un errore non così raro dei copisti, i quali talora inserivano inopportunamente nel testo alcune annotazioni o glosse marginali apposte da qualche lettore. Della possibilità di tale errore ci informano già gli antichi. Si è notato che se il passo su Gesù fosse stato costruito a tavolino da un interpolatore cristiano, sarebbe stato verosimilmente inserito subito dopo il resoconto di Giuseppe su Giovanni Battista, mentre in Giuseppe l'accenno a Gesù non segue il racconto di Giovanni. D'altra parte sarebbe strano che Giuseppe abbia omesso di registrare qualche informazione su Gesù, dato che si occupa del Battista, di Giacomo e di altri personaggi del genere. Né il cristianesimo, da storico qual era, gli poteva essere ignoto, essendo a quei tempi penetrato fin nella famiglia imperiale. Quando poi Giuseppe, più avanti, tratta di Giacomo, invece di indicare come si faceva di solito il nome del padre per identificarlo, cioè Giacomo figlio di, lo chiama fratello di Gesù detto il Cristo, senza aggiungere altro, lasciando intendere che questa figura era già nota ai suoi lettori. Se a ciò si aggiunge che Flavio Giuseppe parla già di altri profeti, come appunto Giovanni oppure Teuda, è perfettamente plausibile che si sia occupato anche di Cristo. Una svolta decisiva nell'analisi del testo fu impressa nel 1971 dalla scoperta di una storia universale scritta in Siria nel X secolo dal vescovo storico cristiano Agapio di Ierapoli in Frigia, Asia Minore, che riporta una traduzione araba del Testimonium. Per molti essa rappresenta un testo migliore di quello greco tramandato, compatibile con il pensiero di Giuseppe e privo di quelle affermazioni cristiane che sono state contestate dai critici. In tal modo parve confermare sia la sostanziale autenticità del passo, sia la teoria di coloro che già prima avevano ipotizzato un'interpolazione successiva con i soli metodi della critica interna. Ecco il testo arabo. Similmente, dice Giuseppe l'Ebreo, poiché egli racconta nei trattati che ha scritto sul governo dei Giudei, ci fu, verso quel tempo, un uomo saggio che era chiamato Gesù, che dimostrava una buona condotta di vita ed era considerato virtuoso o dotto, e aveva come allievi molta gente dei Giudei e degli altri popoli, Pilato lo condannò alla crocifissione e alla morte, ma coloro che erano stati suoi discepoli non rinunciarono al suo discepolato o dottrina e raccontarono che egli era loro apparso 3 giorni dopo la crocifissione ed era vivo ed era probabilmente il Cristo del quale i profeti hanno detto meraviglie. Come è possibile notare da un semplice raffronto fra i due testi, siamo di fronte alle medesime informazioni. Tuttavia, mentre nella recensione greca Giuseppe sembra riferire in prima persona le considerazioni cristiane nei riguardi di Gesù, quasi le condividesse, in quello arabo egli si limita esclusivamente a riportare quanto i discepoli di Gesù riferivano su di lui. Da parte sua, l'autore testimonia l'esistenza storica di quello che egli chiama in entrambi i testi un uomo saggio. L'importanza di questo testo, forse più puro, sta nel fatto che è opera di un vescovo cristiano. Parrebbe difficile pensare che in uno scrittore cristiano il testo di Giuseppe sia stato modificato in senso minimizzante nei confronti di Gesù, per cui probabilmente Agapio aveva di fronte una migliore recensione del testo di Giuseppe. Migliore recensione non significa originale. Egli infatti traduceva da una versione siriaca, forse anch'essa viziata da qualche intervento redazionale spurio. Alla luce di tutto ciò, i critici moderni sono ormai concordi nel ritenere il passo del testimonium come sostanzialmente autentico nella sua testimonianza storica di Gesù, sebbene per molti esso ha subito prima del secolo IV delle interpolazioni cristiane. E non manca chi, diversamente spiegando le parti cosiddette cristiane, ritiene che queste interpolazioni non esistano, e che il testo sia interamente autentico. Etienne Naudet, per esempio. L'importante monografia di Serge Badet, favorevole all'autenticità completa, affronta tutti questi problemi ed è un riferimento imprescindibile. Lucio Troiani ha dimostrato che il testo può anche essere conservato così com'è senza dover ipotizzare alcuna alterazione cristiana. Quanto ci interessa rilevare in sostanza è che Giuseppe Flavio cita nelle sue opere storiche 3 personaggi evangelici, ossia Giovanni Battista, Giacomo il Minore e Gesù medesimo, collocando intorno all'anno 30 d.C. l'attività e la morte di quest'ultimo per mano di Ponzio Pilato su denuncia delle autorità giudaiche dell'epoca.